Questa è una canzone stupida, questa è una canzone senza contenuto. Vorrei dirti quanto ti detesto, ma sono un moderato, tutto trattenuto. Era così una brava persona, dichiarano i vicini davvero sconcertati, mentre la luce blu dei lampeggianti disegna ombre davvero inquietanti. Sono i moderati, anche un po' stitici, che a un certo punto cambiano la storia, entrano in casa e cercano la gloria. I titoli dei giornali sono davvero, davvero impietosi. Ci dicono solo qual è stato il finale, ma mai davvero cosa c'è di male. Ma mai davvero cosa c'è di male. Ma questa è una canzone stupida, come ho detto, senza contenuto, scritta al volo da un moderato, che ora vi lascia perché ha altro da fare, che ora vi lascia perché ha altro da fare. Fare.